Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Allora, i temi di questa giornata economico-finanziaria: male tutte le borse, meno 2% Parigi e Francoforte, meno 1% Londra. Certo, l'America sta contribuendo non poco, 1.5%, dati americani oggi non esaltanti per alcuni versi, per altri invece sì, e soprattutto una reazione un po' singolare alla dichiarazione del Fondo Monetario Internazionale, che ha decretato, per voce del suo direttore generale Dominique Strauss-Kahn, la ripresa è realmente iniziata. E i mercati festeggiano vendendo. Ancora Milano perde l'1,8%, anche perché è molto pesante il calo di titoli che hanno una forte rilevanza sull'indice. Mi riferisco da un lato ad Eni, meno 1,2%, ma soprattutto a Telecom Italia, meno 4,2%, Italcementi meno 3% come il Banco Popolare, e anche le CIR perdono il 3, il 2,80 il calo di Generali e del Monte dei Paschi, il 2,5 è quello di Intese e di Unicredito, ma anche di Ansaldo CTS, di Pirelli, di Mediolanum e della Popolare di Milano, tutti in calo del 2,5%. Unipol e Tenaris perdono il 2,1%, Mondadori il 2 come Enel, Fondiaria Sai e Impregilo. Chi guadagna? E qui vedo già alcuni messaggi. Guadagna Exor più 2,3%, Finmeccanica invariata e soprattutto Fiat, il vero caso di borsa di oggi, più 7,2% a 9,42 euro. Che cosa è successo, direte voi? Beh, è successo in sostanza che mentre si attendono i dati sulle matricolazioni di auto, e quella potrebbe sicuramente portare una buona notizia, ma insomma non tale da giustificare un 7% di rialzo, è uscito un report, e infatti la stagione dei report è ripartita alla grande. Sono quei rapporti stilati dalle banche che indicano se comprare o vendere un titolo e a quale obiettivo di prezzo lo immaginano. Sapete tutto il nostro scetticismo sui report, uno scetticismo che dura da 10 anni, visto che fra 2 giorni ci siamo a festeggiare 10 anni, perché spesso riteniamo che siano strumenti per addetti ai lavori. Sono comunque report in cui non viene chiarito qual è in realtà il conflitto di interesse della banca che li emette, e soprattutto abbiamo visto di tutto in questi anni, cioè report cambiare, consigli, suggerimenti cambiare nell'arco di poco tempo. Ebbene, è il caso di oggi. Perché lo dico? Poi ne parleremo con calma, senza nessuna polemica. Ma insomma, Morgan Stanley, che è una banca d'affari importante, una delle famose banche d'affari americane, ha detto il prezzo obiettivo, target price, per far finta di aver studiato, di Fiat è a 16 euro, ne vale 9,42, perché vi sarà una proroga degli incentivi auto e Fiat ne beneficerà. Va benissimo, 16 euro vuol dire, non dico il doppio, ma quasi rispetto al valore attuale. La cosa interessante è che se si legge questo report, così vediamo di capirci subito, Morgan Stanley dice per noi il prezzo obiettivo è 16,8 euro, però potrebbero arrivare a 33 euro le azioni Fiat, oppure nello scenario peggiore a 3 euro, capirai, da 3 a 33. Sembra un po' lotto. Ma la cosa più interessante, poi concludo e passiamo alle altre notizie, è che sempre Morgan Stanley a dicembre, cioè 9 mesi fa, sosteneva che l'obiettivo di prezzo, insomma che il prezzo giusto per le azioni Fiat fosse 2,4 euro con un debito che sarebbe esploso a 9 miliardi. Ora, insomma, se in 9 mesi, neanche 8 mesi, si passa da 2,4 euro a 17 euro, non aggiungiamo altro e partiamo con le notizie in breve. E allora, nel giorno in cui il Fondo Monetario decreta che la ripresa è realmente iniziata, diffonde anche le nuove stime, mentre Strauss-Kahn si è visto lanciare una scarpa mentre parlava, questo insomma, come notizia quasi di colore. Insomma, il Fondo Monetario dice che la crescita è tornata ma è lenta, la vera sfida si chiama occupazione e povertà. Comunque ha alzato le stime sul 2010, il PIL mondiale crescerà del 3,1, in America più 1,5, l'Europa ferma, purtroppo l'area euro non andrà oltre lo 0,3% di rialzo. E l'Italia nel 2010 vedrà una crescita dello 0,2%. Sono stime fatte adesso, magari miglioreranno, perché ormai lo sappiamo, il Fondo Monetario, l'OCSE, la Commissione Europea le rivedono in continuazione queste stime. Il deficit italiano salirà al 5,6% nel 2009 e nel 2010, il debito al 120% nel 2010. Quello che invece è un fatto e non una previsione è il dato sulla disoccupazione nell'area europea. È a record da 10 anni, purtroppo. Il tasso di disoccupazione ha raggiunto il 9,6% nel mese di agosto, è il tasso più elevato dal 1999. Manca, o meglio, il dato italiano è ancora vecchio, è riferito al secondo trimestre del 2009 e indica, per quello che riguarda l'Italia, una disoccupazione al 7,5%. Il petrolio in calo leggero, ma attenzione, a $70 al barile. Questo ci porta a parlare anche di economia dei singoli paesi. E allora, una notizia che ci ha molto incuriosito: la TV è stata scalzata in Gran Bretagna per la prima volta da internet quanto a raccolta pubblicitaria. Pensate che nei primi 6 mesi del 2009 gli investimenti pubblicitari sul web in Gran Bretagna hanno superato quelli televisivi. Praticamente gli inserzionisti hanno investito 1,750 milioni di sterline per il web, che a questo punto ha il 23% del mercato e un punto e mezzo in più del giro d'affari della televisione. Non a caso gli analisti parlano di evento memorabile, la prima volta infatti che in un paese, in un'economia sviluppata come quella britannica, la raccolta pubblicitaria di internet supera quella già molto forte della televisione. Ancora, per quello che riguarda invece gli Stati Uniti, abbiamo oggi due dati, come spesso avviene, di segno opposto. Perché? Perché le spese per i consumi hanno registrato nel mese di agosto il balzo più forte degli ultimi 8 anni, più 1,3%, e meglio di ogni attesa, anche perché i consumi americani da soli fanno il 70% dell'intero PIL statunitense. E quindi c'è un recupero netto importante, vediamo, speriamo che venga a quel punto che si strutturi, ma insomma più 1,3% mese su mese è molto, è il livello più alto da 8 anni. Temono gli economisti che se i redditi americani non andranno a rafforzarsi, questo incremento potrebbe solo rivelarsi però un fuoco di paglia, un rimbalzo di breve durata. E poi è arrivato un dato invece peggiore delle attese, ossia le nuove richieste di sussidi di disoccupazione, 17.000 in più la scorsa settimana, 500.000 in totale. Gli analisti si attendevano non più di 5.000 richieste, nuove richieste di sussidi di disoccupazione. Ancora sull'occupazione, adesso vi arriviamo, anche perché oggi c'è un altro dato che non riguarda solo la disoccupazione a livello europeo, ma il nostro commercio con l'estero. Purtroppo ad agosto è crollato soprattutto nei paesi fuori dall'Europa, meno 15% rispetto a luglio e meno 25% rispetto a un anno prima. Le importazioni sono diminuite invece del 30% rispetto a un anno prima, però il saldo è negativo per 970 milioni, mentre era negativo di 2 miliardi l'anno scorso. L'abbiamo già spiegato alcune volte, sembra un paradosso, ma visto che stanno calando più le importazioni di quanto non calino le nostre esportazioni, paradossalmente il dato è positivo sulla bilancia commerciale, più positivo di un anno fa, quando comunque si esportava molto molto di più. Dov'è che è calato il nostro export? Meno 23% rispetto all'agosto del 2008 negli Stati Uniti, meno 34% nei paesi OPEC, meno 43% la Russia, tiene il Giappone invece, meno 2%, e tiene soprattutto la Cina, più 5,5%, conferma che quello che si riesce a esportare va soprattutto verso l'Asia. I settori meccanica meno 23%, autoveicoli meno 20, tessile abbigliamento meno 30, calzature pelli meno 23, mobili meno 30, chimica meno 22, elettronica meno 30%. E questo ci porta al primo tema, l'economia europea, l'economia italiana, le politiche per rilanciare l'economia. Oggi una richiesta, un appello da parte della Presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, rifacendosi soprattutto a un caso concreto, ossia l'iniziativa presa dal governo francese per aiutare le sue imprese. È anche interessante vedere che la Francia oggi ha deciso proprio di levare una sorta di IRAP per un valore di 11,6 miliardi di euro a favore delle imprese. Si attende una mossa simile di riduzione fiscale dal nuovo governo della cancelliera Merkel. Fino ad oggi non abbiamo chiesto riduzione di tasse perché comprendevamo il problema del debito pubblico e della necessità di stanziare soldi sugli ammortizzatori sociali, tutto quello che abbiamo detto. È chiaro che nel momento in cui si cominciano a muovere stati come la Francia e la Germania, che sono i nostri diretti competitori, insomma, questo tema va posto all'attenzione anche del nostro governo. Il problema di competitività e di concorrenza. Così Emma Marcegaglia, microfono della nostra Alessandra Schepisi, fare riferimento all'abolizione della tax professionnelle, come si chiama in Francia, quella sugli investimenti delle imprese, ed è il piatto forte della finanziaria che ieri ha presentato il presidente francese Sarkozy al Consiglio dei Ministri. Che cosa significa in sostanza? Un alleggerimento fiscale di 11 miliardi di euro complessivamente all'inizio, e poi una volta regime sono 6 miliardi di euro in meno per le casse dello Stato francese. Ma che significa 6 miliardi di euro in meno all'anno per le imprese francesi, con una prima botta positiva di 11 miliardi e mezzo di tasse in meno per le imprese francesi. Ecco perché avete sentito Emma Marcegaglia ricordare l'importanza dell'IRAP, e cioè di seguire l'esempio analogo anche con la nostra IRAP, che più o meno equivale alla tax professionnelle francese. Questo porterà poi un deficit francese a livelli altissimi. Comunque vorrei intanto un dettaglio sull'operazione da Tilio Geroni, corrispondente del Sole 24 Ore da Parigi. Buonasera Tilio. Buonasera a voi. La soppressione della tax professionnelle in realtà è una vecchia notizia che risale a febbraio scorso, quando il presidente francese Nicolas Sarkozy la annunciò. Ricordiamo che Mitterrand la definì la tassa più stupida del mondo, però ci sono voluti dei decenni per abolirla. Dunque la decisione risale a febbraio, e ieri il Consiglio dei Ministri, nel progetto di legge finanziaria 2010, questa proposta, questa idea del presidente Sarkozy è diventata realtà. Il primo ministro François Fillon ha parlato di uno shock di competitività, ed è chiaro che l'anno in cui le imprese verranno a beneficiare di uno sgravio fiscale di quasi 12 miliardi di euro, ecco, questo dovrà avere sicuramente un impatto a livello micro e macroeconomico sulle possibilità di ripresa della crescita della Francia. Oltretutto si tratta di una manovra coerente con quello che era stato il piano di rilancio, 40 miliardi il piano anticrisi di Nicolas Sarkozy della Francia, ricordiamolo, ed era un piano che si basava soprattutto sugli investimenti pubblici in infrastrutture e su tutta un'altra serie di sgravi, di facilitazioni per le imprese. Quindi è una politica dell'offerta che può suonare così normale, ma in Francia la politica dell'offerta non aveva mai incontrato parecchio successo. Con Sarkozy, tra il piano di rilancio anticrisi e questa finanziaria, siamo di fronte anche a una svolta strutturale della politica fiscale, e ripeto, questa politica dell'offerta che privilegia gli aiuti, gli sgravi fiscali nelle imprese rispetto alla domanda. Ecco, Attilio, due domande per te. La prima: è chiaro che la Francia ha un debito che, se non ricordo male, è il 60% del PIL, cioè la metà del nostro. Noi siamo viaggiamo al 115, per cui si può permettere anche di spendere un po' di più, di largheggiare un po' di più sui conti pubblici. Però, visto che oggi si è saputo che la prossima settimana la Commissione europea discuterà la possibilità di aprire una procedura di infrazione per deficit eccessivo contro 9 paesi, tra cui Italia, Germania, Portogallo, è già scattata la procedura di infrazione per Grecia, Irlanda, Francia, Spagna, Malta, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Ungheria, Regno Unito, ti chiedo, la Francia va in questo modo ad avere 11 miliardi e mezzo di entrate fiscali in meno quest'anno e 6 miliardi su base permanente in meno ogni anno. Il deficit andrà all'8,5% nel 2010, delle due l'una, o Sarkozy se ne frega, tira dritto e si becca tutti i richiami del mondo da parte di Bruxelles, oppure i soldi per correggere il deficit li trova da un'altra parte. Il problema è il consolidamento delle finanze pubbliche, non è mai stata una priorità dell'Eliseo, cioè di Sarkozy da quando è venuto al potere. Il primo atto formale fu un pacchetto fiscale che venne varato nell'estate 2007 e fu uno sgravio fiscale per le famiglie e per le imprese, riduzione della patrimoniale che alla fine costa allo Stato tra i 10 e i 12 miliardi di euro. Quindi diciamo che il consolidamento della finanza pubblica non è una priorità di questo governo, di questo esecutivo francese. I problemi cominciano a esserci perché con quelle cifre che tu hai dato, le cifre che mette in campo la Francia per l'anno prossimo, il debito pubblico arriverà all'84% del PIL, molto lontano dai livelli italiani, però non così lontano come prima. È preoccupante, ecco. Ecco, è interessante perché occorre capirsi bene, cioè se si spendono soldi in questo caso per alleggerire fiscalmente le imprese, da qualche parte o lo Stato aumenta la tassazione di altro genere o spende di meno, ma sappiamo che è molto difficile tagliare i flussi in un periodo di lenta ripresa dell'economia, oppure imbarchi deficit. Certo che la Francia non ha il problema che l'Italia, che come imbarca un po' di deficit rischia di vedesse abbassare il voto da parte delle agenzie di rating e quindi ci costa di più rifinanziare il nostro debito, però l'8,5% fa impressione come dato. Ancora ti vorrei chiedere, è questo alla fine il piatto forte, l'elemento forte della politica di rilancio francese? Sappiamo che la Francia non ha grossi problemi di domanda interna, i consumi tengono abbastanza grazie a un welfare che funziona bene, è da lì che spera di uscire prima di altri dalla recessione? Sì, devo dire che tutti dicono, la Francia ha resistito meglio di altri paesi europei, meglio dell'Italia, meglio della Germania a questa crisi, ma grazie soprattutto, come dicevi tu, a un sistema di welfare, a degli stabilizzatori automatici che hanno funzionato molto bene, quindi la domanda interna continua a essere, non ha l'encefalogramma piatto come in altri paesi. I francesi spendono di meno, però siamo nel segno positivo. La grande incognita in tutto questo è l'idea del presidente Sarkozy, lanciata l'estate scorsa, di un grande prestito nazionale. Allora, delle due l'una, o fa il prestito nazionale, di cui non si conosce ancora l'entità, dovremmo saperlo entro la fine dell'anno, o aumenti le tasse. Quindi Sarkozy ha scelto di non aumentare le tasse. È chiaro che anche questo maxi prestito nazionale, che nelle intenzioni del governo dovrà finanziare lo sviluppo futuro, quindi educazione, ricerca, infrastrutture, è un'altra ipoteca sulle casse pubbliche e sul debito pubblico che pagheranno le generazioni successive, forse. Questo è chiaro, però la Francia va seguita con attenzione perché, ripeto, è il paese che avrà il calo del PIL minore quest'anno tra quelli grossi, meno 2,5 se non ricordo male. Praticamente la metà rispetto al calo tedesco, al calo italiano e anche a quello britannico, è il paese che sta apportando misure di questo genere per far ripartire le proprie imprese, di fatto levandogli buona parte della cosiddetta IRAP francese. Sulla crisi, sul fatto che si stia uscendo, ma i dati della disoccupazione europea nel mese di agosto sono preoccupanti, anche su questo diceva, è intervenuta la Presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, ascoltiamo questo passaggio. Come noi diciamo sempre, la crisi non è finita, l'impatto sull'occupazione c'è ancora, chiaramente questo è un indice europeo, il nostro indice italiano di disoccupazione per il momento è migliore, però continuiamo a dire che la crisi c'è. E vorrei concludere proprio sulla disoccupazione, il collegamento con Attilio Geroni. Attilio, da questo punto di vista la Francia è messa meglio sicuramente della Spagna, che viaggia al 18%, ma anche di Italia e Germania? No, rispetto all'Italia è più alto il tasso di disoccupazione, però perché ci sono state tutta una serie di ristrutturazioni, piccole e medie imprese francesi sono strutturalmente sono molto più... Abbiamo visto la polemica anche sui suicidi, esatto. Devastante. France Telecom, e ci sono state molte ristrutturazioni, molta gente ha perso il posto di lavoro e molta gente ne perderà ancora. Questo il governo se l'attende, e la disoccupazione è un indicator ritardante, no, della crisi economica, e quindi il peggio sta arrivando e deve ancora arrivare. E anche per questo il governo francese, oltre agli stabilizzatori automatici, un sistema di welfare che funziona molto bene, ha varato una serie di programmi, ad esempio l'ultimo sull'aiuto degli aiuti ai giovani che escono dal mondo della scuola senza una qualificazione professionale particolare. Un'ultimissima domanda, visto che ce lo chiedono gli ascoltatori, al 349-238-6666, ma è vero che questa ondata, forse ondata è un po' eccessiva, ma insomma... questi numerosi suicidi drammatici di lavoratori di France Telecom, in generale, che hanno colpito la Francia, sono riconducibili a degli ammortizzatori sociali non così automatici come quelli italiani? No, ma lì non c'entra nulla il... C'è cassa integrazione che scatta in automatico come da noi? Questa è la domanda, no, poi immagino. I suicidi sono legati in realtà alla riorganizzazione, non si parla di licenziamenti, non è gente che è stata licenziata, ha perso il posto di lavoro, è gente che è stata spostata da una funzione, France Telecom, diciamo un tecnico, uno che andava a installare il telefono fisso nelle case, da un giorno all'altro, anche dopo una breve riqualificazione professionale, si è trovato nei call center assieme dei giovanissimi a dover vendere dei prodotti, quindi una cosa che non era nel suo DNA e che ha causato tutta una serie di disfunzioni, di disagi. Certo. Cioè France Telecom era una carrozzone pubblico, si è trasformato in un gruppo di TLC, le competenze tecniche di un tempo non servono più, servono delle competenze commerciali, vendere. Sì, vabbè, però non c'è mai un buon motivo per suicidarsi, sia chiaro, ma men che meno questo, nel senso, non si può parlare di situazione disperata, adesso con tutto il rispetto, proprio per chi invece il lavoro lo perde veramente, non si può parlare di situazione disperata, lo dico a chi scrive, solo perché ti hanno detto di cambiare mansione dentro France Telecom. Non è bello, non piace a nessuno, ma altre sono le situazioni disperate in chi perde veramente il lavoro. Grazie in ogni caso ad Attilio Geroni, il meteo, la pubblicità, poi torniamo brevemente sui Tremonti Bond. Non possiamo rifare una puntata ponendoci la domanda se le banche abbiano fatto bene o male, soprattutto Intesa San Paolo e Unicredito, a non usare i soldi offerti attraverso l'obbligazione a Tremonti. C'è chi dice che sono troppo cari, c'è chi dice che però in questo modo allora le banche dicono che stanno bene e allora dessero i soldi alle imprese e ai clienti. Vi anticipo però che domani, se tutto va bene, assisteremo a un bel duello tra l'economista, il nostro ospite ieri, Donato Masciandaro, e un altro economista, nostro ospite ieri ma in un altro momento, ossia Giulio Sapelli, che sul tema dei Tremonti Bond e delle banche la pensano in maniera direi diametralmente opposta. Domani in apertura di programma ne vedremo forse delle belle. ...17:38 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per questa parte di Focus Economia in cui commenteremo la chiusura di borsa. Prima di tutto però, come promesso, un piccolo aggiornamento sulla vicenda Tremonti Bond. Hanno fatto bene le banche perché erano troppo cari e avevano paura che entrasse la politica nei consigli di amministrazione. No, hanno fatto male perché in realtà non si può dire che c'erano difficoltà nell'erogare credito e poi non accettare l'aiuto dello Stato, o c'è anche chi dice sarebbero stati utili ma dati un anno fa, non con questi tempi. Lasciamo a voi il giudizio, noi abbiamo ospitato diverse opinioni su questo, vi facciamo ascoltare che cosa il commento oggi della Presidente di Confindustria Marcegaglia proprio sul ricorso o meno ai Tremonti Bond da parte delle banche. Ovviamente il tema della restrizione del credito per noi è un tema centrale. Noi quando c'era stata la decisione di varare i Tremonti Bond avevamo espresso il nostro parere favorevole su un progetto o uno strumento di questo tipo. Ora ovviamente le banche sono libere e devono decidere come aumentare i propri patrimoni, quindi se le banche hanno fatto una scelta di mercato noi la rispettiamo. molto importante che però ci sia il supporto delle banche alle imprese, perché questo è un tema centrale, ancora irrisolto, e quindi entriamo nella scelta appunto degli strumenti, però chiediamo invece con forza che il sostegno alle imprese ci sia. Appuntamento a domani, lo ripeto, 17:15 per ascoltare due opinioni diametralmente opposte. Adesso però la borsa, e oggi la borsa si merita una bella pagina. Se la merita per il calo, in questo caso molto pesante, meno 2% in Francoforte e Parigi, meno 1,80% a Milano, meno 1,5% all'America, meno 2,40% al Nasdaq. A Wall Street l'euro è sceso a quota 1,45-34, quindi questo è il primo commento. Ma poi se la merita, perché non vorrei, diciamo, andare avanti con i miei strali contro i report delle banche d'affari, però Fiat più 7,8% a 9,47 euro dopo il giudizio di Morgan Stanley, la stessa banca d'affari, non ce ne abbia Morgan Stanley, che a dicembre, cioè 9 mesi fa, diceva Fiat non vale più di 2,4 euro e il debito esploderà 9 miliardi. Passano 9 mesi, il tempo di un parto, e infatti partorisce Morgan Stanley l'idea che Fiat valga 17 euro, cioè da 2 a 17, con possibilità di arrivare fino a 33 euro, però dice anche nella peggiore delle ipotesi a 3 euro. La domanda è, e lo dico in maniera molto ironica, quali tipo di alcolici, visto che c'è una proposta di legge di modificare gli alcolici secondo le regioni, stiano bevendo a Morgan Stanley. Al di là della battuta, io non so, resto senza parole. Guido Maurino, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera. Tra l'altro, visto che andiamo avanti per non citare solo Morgan Stanley, il 7 luglio 2007 JP Morgan aveva alzato il prezzo obiettivo sul titolo Fiat a 30 euro, dicendo che poteva arrivare anche a 40 euro. E dal momento in cui l'ha detto JP Morgan, cioè il 7 luglio del 2007, il titolo valeva 23 euro, per la cronaca è iniziato a andare in picchiata, 22 euro, 17 euro e poi è arrivato a 3,47 euro. Della serie facciamo l'opposto di quello che dicono gli analisti a sto punto, se continua così. Comunque, Guido Maurino, come mai è Morgan Stanley così fiducioso? Noi ce l'auguriamo che Fiat possa volare fino a 33 euro per azione, se a dicembre diceva che non andava oltre i 2,5 euro. Sostanzialmente sono più fiduciosi di questa ipotesi, cioè su questa aggregazione con Chrysler, sono fiduciosi sul fatto che questa alleanza debba portare dei benefici per Fiat che non sono ancora incorporati nel prezzo, e per cui spiega così, diciamo, la revisione al rialzo del prezzo obiettivo. C'è anche da dire che ci sono anche altre ragioni per cui Fiat oggi è andata bene, ed è la questione degli incentivi auto in Italia, visto che comunque ieri il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha aperto a una proroga degli incentivi. Questo comunque ha il suo valore sul mercato italiano, che rimane il mercato principale per Fiat. E va bene, non vado oltre perché tanto il mio giudizio è chiaro su questi report, devono essere lasciati agli operatori che sanno valutare poi le varie esposizioni delle banche nei confronti dei titoli che suggeriscono di comprare o vendere. Un normale cittadino, risparmiatore, non ha la possibilità di sapere se poi Morgan Stanley ha magari la Fiat e ce l'ha in portafoglio a 7 euro e allora la spinge, oppure se JP Morgan voleva vendere Fiat a suo tempo. Per cui lasciate queste cose agli operatori di professione. Noi andiamo avanti invece sulla borsa nel suo complesso. Come mai un calo del 2%? Io non ho visto dati macroeconomici se non i sussidi, le richieste di sussidio della disoccupazione americana un po' peggiore delle attese, ma i consumi in America sono cresciuti più del previsto. Sì, sono cresciuti più del previsto, però c'è un altro dato che ho già inciso abbastanza, che è l'ISM manifatturiero. Anche questo è calato ed era in attesa questo calo in questo mese, per cui questo ha inciso molto, perché poi va a incidere sul PIL e quindi a catena su tutta l'economia. Infatti a pagare, anche abbiamo visto in borsa spesso, sono anche stati alcuni titoli industriali ciclici che oggi sono andati abbastanza abbastanza male, penso ad esempio a Italcementi che ha ceduto il 2,57%, in qualche modo anche la holding CIR che ha sul interno dell'attività industriale ha ceduto il 3,26%, quindi insomma non una grande giornata oggi. Sì, non una grande giornata, molti realizzi devo dire generalizzati, ecco perché poi andremo anche a commentare i titoli, ma insomma il peggior, migliore Fiat l'abbiamo detto è Exor più 2,4, peggior titolo in assoluto di quelli più grossi Telecom Italia meno 4,25, le CIR hanno perso il 3,2, il Banco Popolare il 3% come Ansaldo STS, Unicredit ha perso il 2,7 come le generali, ma anche Geox, il 2,5 lo hanno perso Italcementi, Mondadori, ST Microelectronics e Tenaris, il 2,2% è il calo del Monte dei Paschi, di Enel e di Unipol, il 2% lo ha ceduto Intesa San Paolo ma anche la Popolare di Milano. Di nuovo in diretta, allora Telecom Italia, pesante il calo, e se riusciamo a commentare anche Pirelli Real Estate, su Exor invece devo dire che siccome debuttava oggi sul listino principale è naturale che il titolo venga anche premiato, è uscita Alleanza, ne abbiamo parlato ieri, è entrata Exor, di solito quando un titolo entra nel listino principale, siccome finisce nel portafoglio dei principali fondi di investimento, viene in automatico insomma, premiato. Allora, Telecom e Pirelli Real Estate. Sì, allora, per quanto riguarda Telecom, anche qui abbiamo gli analisti che questa volta invece di spingeranno, come hanno fatto su Fiat, hanno penalizzato il titolo, gli analisti in questione sono quelli di Equitasim, la ragione per cui hanno penalizzato il titolo facendo scendere il loro giudizio da buy a hold è relativamente semplice, gli analisti notano come il titolo sia cresciuto molto durante questi mesi estivi, le quotazioni hanno mostrato un progresso del 22% in linea con quello che ha fatto il listino italiano, però ha fatto meglio di quello che hanno fatto gli altri telefonici, per cui insomma loro non vedono un ulteriore potenziale di crescita per il titolo e hanno sottolineato come forse a questi valori si possa mantenere il titolo, manterrà questa quotazione. In una battuta, Pirelli Real Estate? Sì, Pirelli Real Estate ieri ha annunciato di aver ceduto una quota inizialmente del 5%, poi a salire del 10% a Intesa San Paolo della sua società di gestione attiva nei fondi immobiliari. Oggi il titolo aveva reagito bene, era arrivata a guadagnare oltre il 5%, è un po' arretrata sul finale, comunque ha chiuso a più 1%. Grazie, grazie a Guido Maurino, Radio Corriere Sole 24 Ore. Gli inviteremo di nuovo gli analisti, lo dico a chi ce lo chiede al 349-238-6666, chi poi fa analisi e mette anche i report. Attenzione, noi troviamo particolarmente così strani alcuni report, non le analisi sui titoli, ci mancherebbe, quelle vanno fatte. Quando tu indichi obiettivi di prezzo che spesso vengono sconfessati, qualcuno se lo ricorda Goldman Sachs o JP Morgan, adesso vado a memoria, chiedo Venia, per annunciare un petrolio a $200 al barile, era Goldman Sachs, ebbene dopo tre mesi era crollato a $40 al barile. Comunque cambiamo tema e occupiamoci di economia reale. È più reale del marmo, non so cosa ci sia, ha preso il via infatti ieri a Verona la 44esima edizione di Marmo Mac. Ora, al di là della fiera in sé, qui stiamo parlando di un settore in cui la manifestazione è leader al mondo per il marmo, graniti e pietre. L'Italia è al terzo posto o quarto posto al mondo e tra l'altro vi saranno 1500 espositori di cui il 50%, uno su due esteri. Praticamente sono 54 i paesi presenti, con le novità oltre ad Algeria, Slovenia, Siria e Tunisia anche l'Afghanistan. Direttore della Fiera di Verona, Giovanni Mantovani, buonasera. Buonasera a tutti. Dunque, il settore del marmo, che è un settore importantissimo per il nostro paese, lo dico perché può sembrare una nicchia, ma insomma è una nicchia che vede la presenza di 11.000 imprese e 60.000 addetti, con un giro d'affari di quasi 3 miliardi di euro l'anno, e che vede, oltre che il distretto del Veneto, anche quello molto noto di Carrara e magari alcuni distretti specializzati nella produzione di marmo, pietre, graniti, come quello di Val di Magra, di Trani e di Comiso. Noi siamo il quarto produttore al mondo di marmo e di pietra, dietro la Cina, l'India e la Turchia, e con 200 circa 15 milioni di tonnellate. Dottor Mantovani, In realtà anche nel marmo, ahimè, era difficile che fosse il contrario, la crisi si è fatta sentire. I dati sul primo semestre sono un meno 22% di export e un meno 31% di importazioni. Praticamente l'export è calato da 912 milioni dei primi 6 mesi 2008 a 700 milioni nei primi 6 mesi del 2009, 200 milioni di euro in meno. Le importazioni sono calate da 480 milioni a 330 milioni. Dove si sono registrate le flessioni più pesanti e dove invece tiene il nostro export? Beh, certamente calano in maniera piuttosto pesante i mercati classici del nostro export, quindi principalmente Germania e Stati Uniti. E solo questo evidentemente vale un calo davvero rilevante delle nostre esportazioni, intorno al 30-40% di diminuzione. E sono mercati che oggi soffrono delle stesse problematiche che abbiamo evidentemente anche noi: da un lato la crisi dell'edilizia, dall'altro la crisi dei grandi lavori pubblico-privati e ancora forse in primis un problema di natura finanziaria. Abbiamo avuto un decennio in cui l'edilizia ha fatto una vera e propria corsa, una corsa forse eccessiva rispetto al dato storico, e oggi si è al punto in cui si registrano cali che sono neanche registrabili nelle più grandi crisi della storia. Però a fronte di questo qualche mercato dà dei segnali di ripresa. Per esempio l'Est Europa, abbiamo visto anche il Nord Africa in maniera abbastanza singolare. Segnali che arrivano sì, dal Nord Africa, soprattutto questi paesi che, con i quali abbiamo cominciato anche a, come dire, a dialogare in maniera sistematica come paese, quindi parliamo della Libia, del Marocco, dell'Algeria, dell'Egitto, ma anche alcuni paesi, quelli cosiddetti del vicino Oriente, quindi il Golfo, il Libano, tutti segnali ancora molto sensibili in termini di percentuale, molto meno sensibili in termini di quantitativi, perché ovviamente parliamo di crescite su valori che erano storicamente non significativissimi, però danno il segno di alcuni mercati che stanno ripartendo. Ma soprattutto, e questo forse sfugge agli osservatori, la Cina, che solo nel primo semestre ha già realizzato un import di marmo italiano quasi pari a quello che aveva fatto in tutto il 2008, quindi è un mercato che, come danno a vedere anche i numeri, sta crescendo, quindi crescendo assorbe anche materie prime, prodotti e tecnologie del nostro paese. Allora, il dato sulla Cina è molto importante, perché insomma, se la Cina è riuscita ad importare marmo italiano nei primi 6 mesi pari a tutte le importazioni del 2008, è assolutamente un dato eccezionale. Certo, sono d'accordo con lei, recuperare i cali dei primi paesi importatori di marmo italiano, mi riferisco agli Stati Uniti, meno 47%, e anche la Germania, meno 16%, insomma, in termini di volumi e di valore sarà difficile. C'è un altro aspetto del settore del marmo che spesso non viene considerato, ossia l'Italia è leader mondiale nella produzione di macchine e attrezzatura per l'industria di marmo, cioè non solo noi esportiamo il marmo vero e proprio, ma esportiamo come sempre in molti settori dell'economia anche i macchinari per lavorare nel settore. 264 milioni di euro di macchinari esportati nei primi 6 mesi del 2009, anche qui il calo fa paura, meno 40%. Direttore, ecco, Mantovani. Questo è un dato molto più, secondo me, preoccupante, perché siamo in un settore evidentemente maturo, i nostri grandi importatori sono i paesi ovviamente che producono materia prima, quindi la stessa Cina, l'India, il Brasile, la Turchia, eccetera. E qua probabilmente c'è anche un ragionamento da fare più complessivo, che o noi riusciamo a mettere in campo, non è un esercizio facile, diciamo, tecnologie sempre più sofisticate, però siamo in un settore dove, come dire, fare cose simili è anche abbastanza ordinario. Beh, in bocca al lupo a questo punto per Marmomac e per tutti gli operatori, quindi le 11.000 imprese italiane che operano nel settore del marmo e della pietra. Grazie al direttore generale della Fiera di Verona, Giovanni Mantovani. Grazie a voi. E adesso c'è il nostro GR. Ha ragione l'ascoltatore che dice: Barisoni, magari siamo sul marmo, siamo cavatori, non produttori. Il produttore è stato il buon Dio o la natura, secondo come la si pensi. Avete ragione, non siamo produttori di marmo in senso stretto, ci mancherebbe. minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda e ultima parte di Focus Economia. Sono usciti i dati auto, cioè si possono dire, erano imbargati fino alle 18 i dati auto e immatricolazione nel mese di settembre, ed è buono, più 6,7% del mercato italiano in media, superiore alla media il gruppo Fiat, più 9,4%. Bene, molto bene anche Ford, più 36%, Opel più 14% e Peugeot più 32%. Tralasciamo Porsche, più 63%, perché riguarda 236 auto vendute, e invece molto bene anche Renault, più 48,3%, cala Toyota, meno 26%, Volkswagen meno 13%, e poi BMW tiene, diciamo, perde ma non tantissimo, meno 5,7%, pesante il calo di Audi, meno 27,2%. Ne parliamo allora con uno dei nostri esperti, anche qui stiamo per festeggiare i 10 anni, e mi riferisco al professor Malagodi. Buonasera professore. Buonasera Barisoni. Allora, che cosa possiamo dire? Vabbè, bene le immatricolazioni, attesa per Fiat 2 punti in più rispetto alla media, ma molto bene anche tutti i marchi, diciamo, di così, di fascia più bassa come prezzo. Pesante il calo ancora su Mercedes, BMW, Audi, insomma tra il 16 e il 20%. Beh, il settembre era atteso con un po' di trepidazione, perché si riteneva che fosse la verifica dell'andamento di quest'anno complessivamente, visto che in settembre si stavano accumulando tensioni per il dato occupazionale e quant'altro. Però la domanda è florida, le immatricolazioni tengono, addirittura il volume degli ordini questo mese registra rispetto all'anno scorso un più 16%, il che significa che i provvedimenti messi in atto dal governo, la politica delle case con modelli soprattutto a GPL e a metano, alimenta una domanda di persone che a volte con meno 10.000 euro cambiano vettura con un eccellente prodotto, con risparmi di costi di esercizio e anche con vantaggi per l'ambiente. E il GPL questo mese supera per la prima volta in assoluto il 20%, le vetture GPL sfiorano il 21%, sono quintuplicate rispetto al settembre dell'anno scorso, il che dà un'idea di quale sia l'effettivo andamento della domanda, cioè sono i privati che comprano il GPL mentre flettono le domande delle aziende del noleggio, col che alcune marche, Audi, BMW, Mercedes, quelle che lei prima ha richiamato, soffrono, mentre le generaliste hanno dei vantaggi. E quindi ne emerge anche uno spaccato dei consumi, cioè il privato cittadino, come già abbiamo detto altre volte, c'è una contrazione complessiva del consumo, ma c'è anche una ridefinizione dei consumi, si spende in maniera diversa, non a caso i prodotti biologici nelle catene della grande distribuzione vanno benissimo. Ecco, anche in questo caso possiamo dire, come le ricordava il professore, GPL, quindi vantaggi di vario genere oltre che quelli, diciamo, ecologici, va bene sul fronte privato, però le difficoltà dell'economia si ripercuotono anche su tutte le società che fanno leasing nei gruppi abituati, diciamo, a prendere le macchine in leasing per i propri dipendenti. Assolutamente. Ecco perché poi flettono di più i marchi, diciamo, di auto che costano care, come BMW, Audi, ma anche Mercedes. Sì, che sono poi le tipiche auto aziendali, sì, certo, che servono a fini aziendali, mentre la domanda dei privati quest'anno in settembre rappresenta più del 78% del totale, mentre l'anno scorso rappresentava il 66%. Le società che l'anno scorso erano quasi in settembre il 20%, quest'anno superano il poco il 12%. Ecco quello che conferma anche il risultato delle marche. Però una volta tanto, tra le marche generaliste in questo settembre, più che la marca Fiat, che pure è andata bene, come lei prima ha sottolineato, Lancia. È andata meglio che non il brand Fiat, il brand Lancia in casa torinese, ma sono andate meglio che la marca Fiat, che ha una quota interessante, però non è più il 26% di luglio e di agosto, il 24% migliore di qualcosa rispetto all'anno scorso, però ha perso un po' di smalto, forse per limitata disponibilità di prodotto, mentre brillano particolarmente Ford, che rasenta il 10% e che piazza la sua Fiesta al terzo posto tra le vetture più vendute, con oltre 8.500 unità davanti alla 500. Di queste 8.500 unità, oltre 4.000, esattamente 4.009, sono a Fiesta GPL, che è un modello appena uscito, che in agosto è stato il primo della classifica, poco significativo in agosto, che in settembre conferma il suo apporto alla marca tramite la scelta di clienti che in Fiesta vedono col modello GPL una conferma di un successo. Quindi lei ci sta dicendo che la terza auto più venduta, che è la Fiesta, di questa terza auto più venduta nel mese di settembre, la metà quasi era alimentata GPL. GPL. È un dato molto interessante. In una battuta, Malagodi, perché siamo in chiusura, perché di fronte a questo scenario soffrono invece anche due marchi molto, diciamo, abbordabili, che fanno macchine di solito di fascia non così cara, come Toyota da un lato e Volkswagen dall'altro? Esattamente per quello che dicevamo prima. Toyota in particolare soffre perché la Yaris, pur promozionata fortemente in questo mese, non ha una versione GPL, quindi la flessione è netta. Volkswagen ha una gamma che non è l'esatta traduzione popolare del GPL per quanto riguarda la Golf, e non ha una Polo adatta a questo tipo di domanda, quindi è anche questo il tipo di risposta. Beh, un settembre, prego. Mentre chi come Chevrolet, come... Sì, ma questo il resto del discorso è chiaro, volevo capire appunto se c'entrasse anche su Toyota e Volkswagen. Devo dire che è stato un settembre nero per tutti i marchi tedeschi, la migliore BMW che comunque perde il 5,7 in un mercato che è cresciuto, perché complessivamente è cresciuto del 6,7%. Insomma, la lezione che arriva da questo dato, il primo significativo dopo la pausa estiva, sulle immatricolazioni auto, che il GPL, potremmo dire metano, ti dà una mano sicuramente al settore delle immatricolazioni, e avere un modello col GPL ha significato per molti marchi la differenza. Grazie a Paolo Malagodi in collegamento con noi, le informazioni per chi è in viaggio, e poi ci spostiamo in Turchia, non perché siamo impazziti, ma perché da lì sono arrivate tutte le indicazioni del Fondo Monetario Internazionale, che dicono ormai è accertato, è iniziata la ripresa economica. Minuti e 18 secondi, ci rigiochiamo questo rientro nel prossimo lotto. Ultima parte di Focus Economia. Si diceva la Turchia, scusatemi, dalla Turchia il Fondo Monetario Internazionale ha presentato, da Istanbul per la precisione, il suo rapporto annuale sull'economia, il cosiddetto World Economic Outlook. Allora, Strauss-Kahn dice la ripresa è veramente iniziata. Strauss-Kahn è il direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, che tra una scarpa e l'altra, perché oggi ne hanno tirata anche una, mentre evitava le scarpe, ha detto la ripresa è realmente iniziata. Lo ha ribadito e confermato anche il suo capo economista, ossia Oliver Blanchard, capo economista del Fondo Monetario Internazionale. Ascoltiamolo mentre presentava a Istanbul appunto questo World Economic Outlook. The recovery has started. I think the numbers for the next two quarters, the second half of the year. La ripresa è iniziata e le stime per i due prossimi trimestri dovrebbero essere positive nella maggior parte dei paesi. Questa è un'ottima notizia, perché solo un anno fa erano molto alte le possibilità che lo scenario fosse decisamente peggiore di quello che è oggi. Abbiamo però evitato questa situazione e ci troviamo ora all'inizio della ripresa, almeno per i prossimi sei mesi. Quello che succederà dopo, al momento, è meno chiaro. Riguardo alla politica monetaria, credo si debba continuare con tassi di interesse bassi finché sarà necessario. E potrebbe essere ancora per un po' di tempo. Alla fine è vero che dovremmo pensare ad una politica diversa, ma per ora credo che si debbano mantenere i tassi molto bassi. Sul fronte dei piani di stimolo, è vero che potremmo interromperli ora, ma credo sia meglio mantenerli, così come credo sia più saggio pensare nel medio termine a migliorare alcune riforme come quella delle pensioni o della sanità. E occorre farlo subito, fin da ora. L'ultimo aspetto riguarda il settore finanziario. Nel breve termine è necessario che le banche tornino in ottima salute e in seguito mettere in atto nuove regole, così da non ricadere nella stessa trappola. Dobbiamo andare verso una ripresa che sarà trainata dalla domanda privata, dai consumi e dagli investimenti. Ma non è ancora chiaro se la ripresa sarà forte abbastanza. I consumatori in tutto il mondo sono stati traumatizzati dalla crisi, in particolare quelli statunitensi. Il rischio, dunque, potrebbe essere che la domanda privata non prenda quota e che quindi la ripresa sia lenta, una ripresa azzoppata. Questo è il maggior rischio. Alessandro Merli in collegamento con noi da Istanbul. Ti abbiamo messo le campane perché il Fondo Monetario Internazionale ha detto è arrivata la ripresa e noi siamo tutti contenti che sia arrivata la ripresa, è veramente iniziata. Poi però iniziano tutti i distinguo, ecco perché gli abbiamo messo le campane per giocare anche su questo. Insomma, sì, è arrivata la ripresa, però attenzione, yes but, è arrivata ma è lenta, è arrivata ma rischia di essere zoppa, la disoccupazione continuerà a salire e il rischio è anche la povertà. Insomma, è difficile perché poi nel 2010 l'economia europea, l'economia tornerà a crescere, poi vai a vedere i dati e l'Europa non farà oltre uno 0,3%, capirai, l'Italia oltre uno 0,2%. Non c'è un po' di fretta anche nel Fondo Monetario, forse perché ha un po' di coda di paglia per non aver saputo anticipare la recessione nell'anticipare la ripresa, o siamo troppo cattivi? Ma io credo che i dati più o meno dicano questo, cioè che la ripresa c'è, però la ripresa è anche accompagnata, cioè l'arrivo della ripresa è accompagnato da un'altra constatazione. Blanchard ha detto all'inizio del suo discorso, ha detto è arrivata la ripresa, alla fine del discorso ha detto la crisi non è finita. Ma che quindi, era cambiato qualcosa nel durante? Vabbè, che il ciclo economico è rapido. Nel durante, ma evidentemente ha cercato di chiarire che il fatto che i dati del PIL tornino positivi in alcuni casi molto marginalmente, hai citato il caso dell'area dell'euro, potremmo citare il caso dell'Italia, non è di per sé un'indicazione che la crisi è finita, cioè la gente sulla propria pelle che differenza sentirà se il PIL cala dello 0-1% e quindi tecnicamente si dice che siamo in recessione, o se aumenta dello 0,2%. Questi sono i numeri per esempio previsti dal Fondo Monetario per l'Italia per il 2010, quindi è arrivata la ripresa, qualcosa si sta muovendo, diciamo che stiamo andando in quella direzione, però lungi dal pensare che tutto sia a posto. Credo che questo messaggio il Fondo Monetario lo rivolga soprattutto ai governi, cioè voglia dire attenzione, che non pensiate che adesso tutte le cose sono andate a posto e quindi potete ritirare i pacchetti di stimolo, riprendere ad alzare i tassi di interesse, eccetera. Sì, io ho il sospetto. L'economia ha ancora bisogno di appoggio. Ecco, di sì, io ho il sospetto che dopo le cantonate che hanno preso tutti, Fondo Monetario, OCSE, Commissione Europea, Banca Centrale Europea, che non hanno saputo prevedere la vera, reale recessione che è arrivata e crisi che è arrivata dal fine 2007, ma soprattutto 2008, adesso stiano tutti quanti, vogliono quasi anticipare gli andamenti per non farsi trovare impreparati, quindi in questo caso essere accusati di pessimismo. Ti chiedo, nella vita, se io piglio 5 sberle e poi mi arriva una carezza, non è che proprio sono contento. Allora, se noi perdiamo il 5% del PIL in un anno e poi l'anno dopo facciamo più 0,2, le campane ci stanno. Ma così credo che questo sia un ragionamento giusto, e anche questo è una delle quello cose delle sberle o quello del PIL? Blanchard, tutte e due le cose, cioè in effetti il PIL, l'economia o semplicemente le persone hanno subito, hanno accusato delle sberle in questo, hanno incassato delle sberle, in questi anni. L'altra cosa appunto che dice il fondo è che non è che l'arrivo tecnico, diciamo, della ripresa, quindi quel più 0,1, più 0,2, più 0,3 significherà che le cose sono tornate alla normalità, anzi per recuperare i livelli pre-crisi ci vorranno diversi anni, perché appunto la ripresa sarà lenta. Non è un'opinione condivisa da tutti, abbiamo sentito nei giorni scorsi, lo ha scritto il Sole 24 Ore, Michael Musa, che è un ex capo economista del Fondo Monetario ed è un economista dei più rispettati, dire la ripresa sarà in forma di V e quindi un rimbalzo molto sostenuto, molto forte. Quindi diciamo che le opinioni sono variegate. Il Fondo Monetario in questa fase segnala il ritorno alla ripresa, ma sembra essere abbastanza cauto. Sì, noi ci auguriamo che sia chiaramente a V questa ripresa, che vuol dire appunto che si recupera tutto quello perso rapidamente, non a L. Un'ultima domanda: perché gli hanno tirato la scarpa a Strauss-Kahn? E soprattutto, era fatta in Cina o in Italia? Beh, questo è difficile da stabilire, trattandosi di uno studente dell'Università di Istanbul. Ho sospetto che fosse probabilmente una scarpa da ginnastica fatta non più neanche in Cina, perché ormai ci si è spostati su paesi a costo ancora più basso, tipo adesso qualche paese dell'Asia o addirittura dell'Africa. Vabbè, ma la contestazione al di là su cos'era? Degli scherzi, diciamo, c'è un po' la diatriba. La Turchia è un paese che dipende dal Fondo Monetario, dagli aiuti del Fondo Monetario già da parecchi anni, e naturalmente questo significa anche che il Fondo Monetario tende, certo, ad imporre determinate, o imporre o perlomeno a suggerire, sì, determinate politiche al paese che evidentemente non trovano tutti d'accordo. Diciamo, quello della scarpa è stato un gesto pittoresco che ha ricordato naturalmente Bush, il famoso lancio della scarpa contro George W. Bush da parte di quel invece Alessandro, principalmente anche il lanciatore della scarpa di Istanbul, oltre che studente, era un giornalista tempo perso. Evidentemente, ecco, i giornalisti sono una categoria che ama lanciare le scarpe. Vabbè, finché le ha, le può lanciare. E invece fra un po' c'è il lancio del conduttore, se non chiudo il programma perché sto sforando ogni tempo. Grazie Alessandro Merli, in collegamento con noi da Istanbul. Da Sebastiano Barisoni, l'auguro di una buona serata a voi in ascolto. Ci risentiamo domani dalle 17 in poi con, se tutto va bene, un duello acceso tra chi difende l'azione delle banche sui Tremonti Bond e chi invece dice no, ha ragione il ministro Tremonti. Ci risentiamo domani.